Signore e signori, credo siano le sette spaccate di un nuovo lunedì. Iniziamo una nuova avventura targata pane, burro e rock and roll. C'è l'Ariele sul mixer di Rock FM in compagnia del buon Spadino, Mister Trombetta, la mucca Camilla e Roberto Fricantoni, per iniziare addirittura pure un nuovo mese oggi, lunedì 1 ottobre 2007. Andiamo a cominciare la 21esima puntata di Pane, Burro, Rock and Roll. Sigla! Che giornata che ci aspetta, ragazzi! Che giornata! Ad a passare a nottata! Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. La colazione che dà sue fazione. Pane, burro e rock and roll. Quest'oggi con una spinta in più, una marcia diversa. Abbiamo il turbo. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Sento in dovere di avvisare immediatamente chiunque fosse all'ascolto alla puntata di quest'oggi che non è detto che noi si riesca ad arrivare fino alla fine, eh? È stato un lungo weekend, un weekend vissuto come da contratto all'insegna del rock and roll, altrimenti ci licenziano qui da Rock FM. È un patto che abbiamo fatto con chi di dovere: o si roccheggia o siete licenziati, quindi noi roccheggiamo. Da qualche ora, da poche ore, là fuori, qui a Milano, nella città dalla quale vi parliamo, c'è qualche essere umano che finalmente può guardarsi allo specchio e sentenziare: io sì, sono un vero rocker. E guarda qui, te lo dimostro con una nuova patente. E quindi il primo saluto che faccio è a voi. Tra l'altro a voi che già mi state scrivendo che avete la patente, quindi anche voi avete fatto le ore piccole come noi qui in redazione, quindi accumulati da queste poche ore di sonno si può festeggiare insieme. Tra pochi istanti vi ricordo le nostre coordinate. Vado a cominciare subito con la musica. Vi ho detto che la puntata 21 a iniziare a contare da questa stagione, in realtà dall'inizio di Pane, Burro, Rock and Roll è la 99, quindi domani è la 100. Bisogna inventarsi qualcosa. Andiamo a cominciare con i Triumph, così, per un ottobre trionfante. Magic Power, benvenuti, benvenute, questa è Rock FM. Got the magic power of the music. power, il potere magico della musica, ovviamente. Inizio affidato ai Triumph, musica che più che mai quest'oggi tenterà di tenerci in vita fino alle 9. La musica è la tachipirina, probabilmente. Vado a ricordarvi un paio di coordinate per interagire con noi quest'oggi. Ecco, grazie mister Trombetta, oggi mi servi veramente. Quando vuoi parlare dimmelo che ti infilo sotto le cuffie, così mi dai una bella sveglia. Un numero di SMS, perché no? 335 100 77 77. Dicevo, vedo già con piacere dei neopatentati che si fanno sentire. Che emozione. Saluto il primo che tra l'altro si firma 110. Spero che sia il tuo numero progressivo. Immagino che possa essere il tuo numero progressivo. Potrebbe essere una gran bella idea iniziare come nuovo tormentone di questa trasmissione a salutarci a numeri. Eccolo qua, un altro presente ieri sera. Si firma 147, eccolo lì. Qui dalla finestra di Via Locatelli intravediamo il nostro classico lampione crepuscolare, ancora acceso come sempre a quest'ora. Scopriremo insieme tra le varie cose di quest'oggi quando ci abbandonerà. Intanto dicevo, il potere della musica ad aiutarci quest'oggi. Oh, una bella tamarrata di quella che tira su di solito. Doctor and the Medics, senza offesa ai Doctor and the Medics. Però dai, Spirit in the Sky è un po' una bella tamarrata, no? Accettate? Dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. È tornato buon umore. Rock and roll. Per darti un po' di festa, tutti i giorni. All'inizio di una nuova avventura, di una nuova grande settimana in compagnia di pane, burro e rock and roll, il quotidiano. Buongiorno dalla voce di Roberto Fricantoni. Buongiorno, e quest'oggi è un doppio buongiorno, anzi un Mike buongiorno. Potrebbe essere, non si faccia prendere anche quest'oggi. È una... colpo di scena, sì. Un doppio buongiorno. Reduce dal grande successo di domenica. Dal grande successo di domenica, perché oggi è lunedì 1 ottobre. Giusto. Primo giorno della settimana e primo giorno del mese. Colpo di scena, sì. Fiata le trombe, Turchetti. Io inizierei con un bel almanacco per iniziare al meglio la settimana. Buongiorno, esca per favore da questo corpo. Partiamo allora, da una notizia. Allegria. Datata Allegria. 1 ottobre 1980. Colpo di scena, il famoso 1 ottobre. Lei, DJ Ariele, sì. Che è sempre stato giovane. Da sempre. Da sempre. Non ha vissuto il 1 ottobre o no. L'ha vissuto? Ne ho vissuti non tanti. Non sa cosa si è no. Perso. Cos'è, cos'è? Allora, fino all'inizio degli anni 80, sì. Fin dall'inizio degli anni 80, sì. Il 1 ottobre deve sapere che era in Italia la data d'inizio obbligato di tutte le scuole. Ah, così tardi? Quindi un appello a tutti gli scolari che già stanno andando a scuola? Beh, sì, le usanze sono cambiate, però il 1 di ottobre era la data certa, sicura, una fermezza, una certezza nel nostro mondo di studenti. Iniziavano le scuole. La stupirò, perché grazie alla redazione so che il 1 di ottobre, essendo San Remigio, i bambini che andavano alla prima elementare si chiamavano Remigini. I Remigini. Un saluto, anche lei è stato Remigino. Ma naturalmente, oh. Sì, no, sì, sì, sono un po' confuso. Diciamo anch'io. Di sì. Sì, Remigini. Era il primo di ottobre e si iniziavano le scuole quando il mondo andava nel verso giusto. Passiamo al 1880 con un salto temporale di 100 anni. Andiamo a parlare di Thomas Edison, l'amato Thomas Edison. Grande inventore, grandissimo inventore. Aprì proprio il primo d'ottobre la prima fabbrica di lampadine, facendo notare al resto del mondo che oltre ad essere un grande creativo aveva anche il buzzo buono per gli affari, per il business. Passiamo al 1969, il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta. Sh-ba-ba-bam. Come avrà fatto la prima volta? Si saranno stupiti tantissimo la prima volta per il rumore della barriera del suono. Che non lo sapevano probabilmente. Infatti, no, dico per questo, infatti, senti che roba, ed era la barriera del suono che si infrangeva. 1971. Walt Disney, il grande amico dei bambini. Sì. Walt Disney apre ad Orlando in Florida il famoso Disney World, un parco giochi dedicato per tutti gli infanti. Fantastico. Lei è mai stato a Walt Disney World? Ma io vivo praticamente a Disney World, perché colpo di scena, eccolo lì, sono sempre fuori. Proseguiamo con una brutta notizia per quanto riguarda gli amanti del calcio. Era il 1977, proprio oggi la stella del calcio brasiliano Pelé si ritirava. Quante cose successero nel 77, tra queste anche un infausto ritiro sportivo. Chiudiamo con una notizia invece datata 82, la Sony lancia sul mercato il primo lettore CD. Accidenti, era l'inizio di una nuova era, i CD sostituivano i dischi in vinile. Pensavo, chissà che rumore ha fatto il lancio del primo CD. Beh, ha infranto la barriera del suono a modo suo. Things you forget to say will haunt you. And down here a million days, I know you'll get me through. You don't need to stay, because I'm chiamano Three Colors Red. It's a beautiful day, così cantano, lo speriamo ragazzi. È ancora un momento della giornata dove potrebbe, volendo, trasformarsi in un'ottima giornata. Momento nel quale il lampione crepuscolare ci abbandona e quindi finalmente capiamo che dobbiamo continuare con le nostre gambe fino a questa sera. Sono le 7:24 minuti primi. Allora, parto salutando 110. Ho sperimentato subito la patente con mia moglie, che stanotte non voleva farmi rientrare causa l'ora tarda. Oltre che a cucinarmi in tempo reale succulenti manicaretti, mi ha anche fatto dormire nel lettone. Che simpatica, gentile, eh? Grazie Ariele, grazie maestro. Ottimo rock and roll, buona giornata anche a te. Come l'auguriamo anche al buon Andrea, che ringrazia anche lui per la patente, chiede quando scade. Guarda, con la fatica che facciamo a compilarla abbiamo deciso che non scade mai quella patente, proprio. Non si deve mai rinnovare né nulla. È vostra fino alla fine. Chiede anche i contatti della nostra bella redazionista, caro Andrea. Le ragazze, sappilo, non le facciamo girare qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Strano che nessuno mi abbia chiesto il numero di telefono invece del nostro Isaac Rizzi, il nostro steggista impagabile impagato. Magari c'è ancora tempo, eh? Finalmente ieri, dopo mesi di impegno e lezioni, ho ritirato la mia patente. Grazie a voi un maxi saluto. E ora vivo sfrenato. Più un grande show degli Schiantos. Un abbraccio anche a te, caro Klaus. E concludo velocemente abbracciando anche Andre 999. Questa è la firma. Dopo l'evento di ieri sera ne sono certo. Ariele, devi fare televisione? Ah sì? Anche il mio portafoglio effettivamente ne è certa di questa cosa. Mi sa che bisogna convincere qualcun altro, Andrea, però. Io ho la numero 147. Ciao, 147. Tieni duro. Intravedo anche messaggi degli altri amici, di coloro che dalle altre zone chiedono, si informano. Com'è andata? Cos'è successo? Prima o poi arriviamo anche da voi. È una promessa. Intanto si prosegue con Black Rebel Motorcycle Club. Spread your love like a fever. Vivere oggi. Lavoro, impegni. E finalmente. Pane, burro e rock and roll. Perché ti vuoi bene.